Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte. Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero. Milano che... Buongiorno. Avete appena sentito Lucio Dalla che in una canzone della fine degli anni 70 dava già un'idea che poi sarà quella convenzionale di Milano: Milano vicino all'Europa, Milano che ha le banche, Milano che si diverte. Manca in questa visione la Milano che produce, la Milano che pensa e costruisce oggetti che si toccano e si vedano. Eppure, allora come oggi, quella Milano è importantissima. Anche nell'epoca del mondo dell'economia interconnessa, nell'era della digitalizzazione, della fabbrica 4.0, nell'era in cui sembra che tutto sia connesso a internet e non si tocchi più e tutto sia software, Milano produce oggetti, produce utensili, produce macchine che fanno le macchine. In questa Milano, in questa Lombardia, il manifatturiero mostra segnali di ripresa significativi. Non sono segnali così importanti come quelli che abbiamo visto per l'economia del Veneto, ma comunque sono un segno più. Oggi, in questa puntata, cerchiamo di rispondere a una domanda. Che cosa devono fare le centinaia di imprese manifatturiere milanesi e lombarde per andare avanti e diventare ancora più robuste, per poter dare un futuro a questa città, a questo paese, per crescere? Una risposta a questa serie di domande ha cercato di darle l'Università Bocconi e, per la precisione, la cattedra del professor Guido Corbetta, che è qui ospite con noi. Buongiorno professore. Buongiorno. E che ha condotto una ricerca sulle imprese che ha chiamato 3M, imprese medie, manifatturiere, multinazionali, e ha fatto questa ricerca su un campione selezionato di 51 intervistati iscritti ad Asso Lombarda, che sono intervistati che negli anni della crisi hanno fatto più utili e più fatturato. Poi, visto che si parla di imprese di Asso Lombarda, ci collegheremo per avere un commento con Michele Verna, che è il direttore generale dell'associazione, ha fatto in qualche modo da sponsor di questa ricerca. Ma cominciamo con il professor Corbetta. Che cosa sono le imprese 3M? Ma le imprese 3M sono così, è un acronimo che abbiamo coniato osservando in 8 focus group queste 51 imprese. Quindi sono imprese di dimensione media, quindi sono imprese che hanno superato la soglia della piccola dimensione per competere nei loro settori da leader. Sono imprese manifatturiere, quindi sono imprese dove certamente sono importanti anche una serie di attività di servizio, ma il prodotto e il modo col quale i prodotti si producono sono ancora molto importanti, e sono imprese multinazionali, dando a questa parola una definizione abbastanza precisa, cioè sono imprese che oltre ad attività di esportazione hanno almeno una presenza stabile in mercati esteri, sia essa un'attività di commercializzazione, un'attività di servizio, un'attività produttiva. Ecco, e dalla ricerca emergono le best practice di queste imprese. Praticamente, siccome loro sono, se mi corregga lei se ho capito bene, sono dei leader, perché negli anni della crisi sono cresciuti del 13%, quindi mentre gli altri o chiudevano i battenti o diminuivano il fatturato, loro aumentavano fatturato e anche utili. Si va a vedere perché e si vede se hanno qualcosa da insegnare agli altri, così? È così, credo che l'aspetto interessante di questa ricerca sia che abbiamo cercato di far parlare gli imprenditori, quindi non sono dei professori che hanno, come dire, coniato delle nuove tecniche, delle nuovi suggerimenti, ma sono invece gli imprenditori che tra di loro si sono scambiati valutazioni, commenti, osservazioni, suggerimenti. E da lì sono nati un po' i suggerimenti che noi abbiamo cercato un po' poi di catalogare, quindi il nostro lavoro è stato solo questo. Il primo suggerimento, a mio avviso molto importante, è stato quello che queste imprese sono consapevoli della necessità della crescita dimensionale, cioè sono tutte imprese che partendo da una certa dimensione, hanno ritenuto necessario crescere per potersi da un lato affermare sui mercati, in particolare internazionali, ma anche per rendersi più attrattivi nei confronti delle persone, quindi dei talenti che potevano assumere. Poi? Un secondo elemento, a mio avviso, molto importante, sono tutte imprese che hanno, come dire, hanno avuto il coraggio di ampliarsi oltre il core business, e cerco di spiegare cosa intendo con questa definizione. Intendo che sono imprese che magari sono partite con un'attività, ma hanno poi cercato sempre, sfruttando delle sinergie, di muoversi in attività complementari. E quindi faccio un esempio, sono imprese come EFTA, un'impresa che produceva banchi frigo per i supermercati e poi ha deciso di ampliarsi nei banchi frigo per le gelaterie, nei banchi frigo per le pasticcerie, quindi sono, come dire, ampliamenti limitrofi. Ecco, poi un'altra caratteristica è che sono più aperti degli altri a condividere il capitale con azionisti terzi. L'imprenditore lombardo, in generale l'imprenditore della piccola e media impresa del nord, è generalmente poco propenso ad aprirsi e vuole avere tutto sotto controllo. Dunque, queste sono imprese, occorre dire che sono imprese, d'altro canto le avevamo selezionate così, avevamo selezionato dei campioni, quindi sono imprese piuttosto solide, quindi che non hanno un'immediata, come dire, esigenza di tipo finanziario. Ma proprio, non per alimentare la crescita. Esatto, ma proprio per questo, come abbiamo cercato di dire, hanno superato i preconcetti sulle strategie finanziarie, no? Ci sono alcuni preconcetti legati al fatto appunto di voler mantenere il controllo al 100% e non, ovviamente non tutte queste imprese hanno aperto il capitale, ma quello che è interessante è che tutte queste imprese si sono chiesto se era opportuno o meno aprire il capitale, hanno contattato, sono stati contattati da fondi di private equity, hanno valutato ipotesi di quotazione, hanno valutato la partecipazione. Un esempio di chi ha fatto queste valutazioni, si può fare? Un nome e cognome di azienda? Beh, un'azienda che notoriamente, diciamo, ha svolto tutte queste analisi, poi il fatto che per adesso abbia deciso di rimanere chiusa, a mio avviso non è rilevante, quello che è importante è che è pronta per, è il caso di Artemide è un'azienda oggi pronta per un processo di apertura del capitale che ovviamente poi farà quando lo valuterà opportuno. Ma secondo lei il manifatturiero, l'industria, l'economia reale a Milano e Monza e Brianza come sono messe, come stanno andando al di là degli indicatori numerici? Dunque io facevo questa riflessione, una parte significativa di questa, diciamo, di queste industrie sono a monte di altre industrie evidentemente molto più grandi come dimensioni. In primis l'automotive, quindi automobile, camion, motoristica, eccetera. Ecco, è chiaro che tutte queste aziende che sono fornitori di questa industria stanno andando piuttosto bene, non si vedono ancora eventuali impatti della vicenda Volkswagen. Ma invece si sono visti in questi ultimi 5-6 anni processi di concentrazione, occorre anche dire che qualcuno di questi fornitori oggi non c'è più, quindi gli altri evidentemente sono più forti, però bisogna anche dire che sono imprese che sono riuscite ad adattarsi al nuovo contesto diventando dei fornitori internazionali, quindi uscendo dall'ambito nazionale e diventando dei competitori internazionali. Questo per esempio è un bel esempio. Una seconda industria che sta funzionando bene sono tutte le industrie che vanno a fornire l'industria aeronautica, che è un'industria che nella parte nord, in particolare anche su Varese eccetera, è un'industria particolarmente importante. Ma voglio fare anche un ultimo esempio che non c'entra nulla con questo, ma sono aziende come l'Erbolario o come Nuncas, che sono due brand che probabilmente conosciamo perché vediamo i loro prodotti. Ecco, queste sono aziende che operano nell'ambito dei prodotti a base di erbe, oppure nei prodotti che servono per la detergenza in casa, che hanno identificato delle strategie di posizionamento molto precise e sono cresciute moltissimo. Stiamo parlando di aziende che sono cresciute a tassi anche più alti di quelli che lei citava prima. Ecco, devo interrompere un secondo perché si avvicina la pubblicità, però volevo dire a chi è in ascolto che da questa ricerca non emergono solo le cose belle per cui magari sembra una marchetta. Da questa ricerca ricerca ci sono anche i punti critici, le difficoltà, le cose che vanno male, che a noi giornalisti sempre divertono. Quindi nella seconda parte chiederemo anche quali sono le criticità. Vi anticipo già che c'è per esempio una scarsità, una difficoltà di lettura delle evoluzioni del contesto nel medio-lungo termine e di fare delle strategie che ne tengano conto. In pratica molti hanno una vista corta, non vanno più in là del loro naso. C'è comunque la dimensione ridotta, che è un problema, e ci sono pochi casi di operazioni straordinarie e diffidenza a considerarle. Non dimentichiamo che Milano è la capitale economica d'Italia, ma alla fine le imprese quotate sono solo 200 e poco più, e sul famoso AIM delle piccole imprese ci sono solo aziende marginali. Un'altra criticità che emerge dalla ricerca è la difficoltà ad attrarre management di valore, nonché la scarsa propensione ad alleanze, networking, co-opetition, cioè quel rapporto per cui con altri concorrenti sei alleato su certe cose e sei rivale su altre, che è un rapporto molto facilitato dalla rete, da internet, ed è fondamentale nell'economia iperconnessa del terzo millennio. Però i nostri imprenditori tante volte sono un po' diffidenti, sono micragnosi, sono gelosi, non hanno un bel carattere, sono accentratori e quindi dicono un cavolo che io mi alleo con altri. Tutti questi difetti, per fortuna, sono elencati in questa ricerca, che altrimenti sarebbe una marchetta. Non lo è, anzi, è una specie di prontuario, di manuale d'uso su come far crescere le proprie aziende, e questo è veramente interessante. Però ora, avvisi sul traffico, state assolutamente con noi, perché vi diremo delle cose molto interessanti. Recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti, ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea. Stavamo parlando di manifatturiero a Milano in Lombardia e di una ricerca dell'Università Bocconi che ha censito le migliori pratiche delle aziende di maggiore successo, cioè di quelle che durante la crisi hanno performato meglio. Prima parlavamo col professor Corbetta, che è l'autore della ricerca, che ci diceva che cosa ha contribuito al loro successo e quali best practice possono essere estese agli altri. Adesso ci colleghiamo con Michele Angelo Verna, che è il direttore generale di Assolombarda, che è la committente di questa ricerca, nonché l'associazione che ha messo a disposizione il campione di iscritti, e sentiamo il suo punto di vista. Buongiorno dottor Verna. Buongiorno Stone. Allora, che cosa ne pensa di ciò che emerge da questa ricerca? Ma intanto questa ricerca fa parte dell'osservatorio Assolombarda Bocconi, quindi è una nostra collaborazione con l'università, e ha delle caratteristiche di notevole originalità, nel senso che questa è una ricerca in cui le imprese parlano alle imprese col linguaggio degli imprenditori. E sicuramente dal punto di vista associativo il fatto che questa ricerca sia stata resa disponibile non solo attraverso un volume, diciamo, che è a disposizione degli associati, ma anche attraverso delle pillole video che sono andate nel nostro video, quindi hanno fatto proprio da education per gli altri imprenditori interessati, ritengo che sia particolarmente innovativo. Ecco, ma delle conclusioni che emergono dalla ricerca, lei, che tra l'altro ha anche un'esperienza come manager, perché lei è stato in Vodafone, in altri grandi gruppi, lei come le vede queste conclusioni sulle migliori strategie? Ma intanto consideriamo che questo campione è un campione di 51 imprenditori, quindi qualitativamente importante, ma anche quantitativamente importante. Queste 51 imprese collettivamente realizzano un giro d'affari di quasi 4 miliardi di euro l'anno e danno lavoro a 16.000 persone, quindi sono assolutamente una proxy importantissima del sistema delle M3 o E3M lombarde, medie, manifatturiere, multinazionali. credo che rappresenti la ricerca il fatto che questi imprenditori moderni hanno realizzato cose necessarie dal punto di vista dello sviluppo strategico dell'impresa. La prima volta che una ricerca firmata da un'università importante come Bocconi fa sì che il 92% degli imprenditori coinvolti riconoscono nei propri fattori interni, nelle proprie dimensioni organizzative interne, le leve per la crescita. Quindi sicuramente vengono fuori diversi limiti allo sviluppo del sistema paese, della burocrazia, della fiscalità, però gli imprenditori guardano dentro casa loro, guardano dentro le loro strategie, dentro l'organizzazione per vedere la possibilità di crescere. E questo è dimostrato dal fatto che queste imprese sono cresciute durante la crisi. Ora ascoltate qualche numero su come sta andando il manifatturiero a Milano e in Lombardia. Secondo uno studio di Confindustria Lombardia sul terzo trimestre 2015, i segnali di una ripresa sono evidenti. Non sono però particolarmente brillanti e restano inferiori a quelle di regioni come il Veneto. L'indagine ha riguardato un campione di più di 2.800 aziende manifatturiere, suddivise in imprese industriali e artigiane. La produzione cresce dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,7% rispetto al medesimo periodo del 2014. Stabili le imprese artigiane, con una variazione nulla sul trimestre precedente e un incremento dello 0,9% rispetto al terzo trimestre del 2014. Gli ordini dall'estero crescono dello 0,5% congiunturale e del 2,4% tendenziale. L'unico segnale negativo viene dagli ordini interni rispetto al trimestre precedente, meno 0,1%, mentre sono in crescita su base tendenziale, più 0,6%. Conferme positive provengono anche dal fatturato, in crescita del 3,0% tendenziale e dello 0,5% congiunturale. Migliorano le aspettative degli imprenditori per la produzione, l'occupazione e la domanda interna, che finalmente registra un saldo positivo dopo 4 anni. In lieve diminuzione, anche se positive, le aspettative sulla domanda estera, mentre i livelli occupazionali restano stazionari. Si riduce invece il ricorso alla cassa integrazione. L'indice della produzione industriale rimane oltre quota 97, livello che ha caratterizzato tutto il 2014 e i primi mesi del 2015, arrivando a 98,2. Per le aziende artigiane, l'indice della produzione rimane a quota 70, con un recupero di quasi 2 punti rispetto al minimo di inizio 2013. Da un punto di vista settoriale, aumenta il numero di settori in crescita. Guidano i settori della gomma plastica, più 4,7%, i mezzi di trasporto, più 3,0%, le pelli calzature, più 2,7%, la meccanica, più 2,4% e il legno mobilio, più 2,2%. Segno negativo invece solo per i minerali non metalliferi, meno 4,2%, per le industrie varie, meno 3,7% e per l'abbigliamento, meno 1,1%. Quest'ultimo dato dovrebbe colpire l'attenzione di chi si illude che la vita economica della città possa basarsi esclusivamente su moda, turismo, ristorazione. Nell'artigianato i migliori risultati positivi si registrano per la gomma plastica, più 4,2%, il legno mobilio, più 2,2% e la meccanica, più 1,6%, mentre restano a segno meno le pelli calzature, meno 6,9% e il tessile, meno 2,3%. A livello dimensionale, le grandi imprese sono cresciute del 2,7%, le medie dell'1,2%, le piccole dell'1,5%. Avete sentito la scheda che è appena andata in onda, i numeri della manifattura nella provincia e nella regione che sta, grazie al cielo, migliorando. Ecco, ma dottor Verna, lei come vede l'evoluzione di questa città anche in riferimento alle sue imprese produttive? Ma noi abbiamo una visione piuttosto chiara, cioè che Milano possa dotarsi di una strategia definita STEAM, che è un acronimo, vuol dire vapore, in inglese vuol dire energia, in realtà tradotto vuol dire la S sta per scienza, la T di tecnologia, la E di engineering, quindi ingegneria, la A di arte, design, cultura e la M che è non la matematica della Silicon Valley, ma la nostra manifattura. Ecco. Insomma, Lucio Dalla quando aveva fatto la canzone su Milano non aveva capito esatto. Niente. Beh, oppure le nebbie in realtà erano vapori dell'industria. Ecco. E quindi questi vapori dell'industria, se ben coadiuvati da una politica, da una partnership pubblico-privato, possono generare nel periodo che va dal 2017 al 2025 all'incirca tra i 17, 18 miliardi e 24 miliardi di euro di PIL aggiuntivo e circa 120 mila posti di lavoro. Quindi sicuramente i segnali già si vedono, li abbiamo sentiti nella scheda, però sicuramente questo territorio ha la possibilità, con questa tradizione della manifattura unita alla scienza e alla tecnologia, ai brevetti e alla ricerca, di avere veramente un impulso e una crescita significativa. Vabbè, ma queste sono le possibilità, sono gli auspici e il futuro da costruire, ma invece oggi come siamo messi? Guardi, il clima di fiducia manifatturiera non è mai stato così alto anche rispetto al periodo pre-crisi. L'export, sì, certo, non ha mai raggiunto questi livelli. Noi facciamo un'indagine rispetto alle nostre imprese associate e questa indagine ci fa vedere la previsione dell'ordine del fatturato per gli anni a venire. Noi abbiamo più della metà delle imprese che nell'anno in corso avranno un fatturato in crescita e questa percentuale aumenta addirittura se la si riferisce al 2016, quindi evidentemente questo trend di crescita c'è, evidentemente va incoraggiato e sostenuto con misure di sistema. Ecco, nella ricerca emergono 8 chiavi per la crescita delle imprese, ve le leggo velocemente. Primo, essere consapevoli della necessità di una crescita dimensionale. Secondo, avere il coraggio di andare oltre il core business. Terzo, eccellere in innovazione incrementale. Quattro, essere multinazionali. Cinque, essere pronti ad alleanze e acquisizioni. Sei, saper gestire business e famiglia. Sette, coltivare i talenti. Otto, superare i preconcetti sulle strategie familiari. Allora, professor Corbetta, un imprenditore manifatturiero che ci ascolta, che si è letto le 8 chiavi, che cosa deve fare? Ma la prima cosa che gli consiglierei è di trovare il tempo di pensare un poco a un futuro a medio-lungo termine. Come lei diceva prima, ci sono anche dei limiti, come in tutti i modelli. Uno dei limiti di questi modelli è che sono ancora molto concentrati sulla figura imprenditoriale, il che è un bene, come si vede dai risultati, ma se lo guardiamo magari a 3-5 anni o oltre, credo che sia importante costruire intorno all'imprenditore una squadra manageriale di primo ordine. E per costruire una squadra manageriale di primo ordine occorre darci una strategia, diciamo, ben definita. Queste sono imprese che sono, come dire, capaci di sviluppare una strategia emergente, probabilmente credo che sarebbe utile per loro provare a fare una riflessione a 3-5 anni dicendo: ma dove potremmo andare? E a quel punto costruirsi una squadra con la quale andare verso quella direzione. Questo potrebbe essere uno spunto utile. Ecco, questo spunto credo che possa interessare anche il dottor Verna, che oltre a essere adesso direttore generale di Assolombarda ha alle spalle una lunga carriera in grandi gruppi internazionali sui temi del personale, dell'organizzazione, della gestione delle risorse umane, delle relazioni industriali. Dunque, secondo lei, da questo punto di vista, queste imprese manifatturiere che cosa devono fare? Ma guardi, io ritengo che alla fine la ricerca indica 3 fattori chiave: innovazione, internazionalizzazione e valorizzazione del capitale umano. Credo che le medie che crescono soprattutto hanno puntato su questi 3 canali. Questa è una lezione anche per l'associazione, che già investiva tantissimo su questi 3 aspetti, ma che quindi investirà ancora di più in termini di formazione e informazione delle imprese. La cosa che è interessante, che un imprenditore ha citato, è la capacità di attrarre dei collaboratori che non siano solo competenti, ma siano appassionati e veloci nelle decisioni e determinati nel saper cogliere le occasioni che si presentano. Quindi io credo che la sfida per questi imprenditori sia trovare dei manager che magari hanno avuto esperienza in gruppi più ampi, ma che sappiano cogliere quella agilità, quella passione, quella imprenditorialità. E come si fa a motivare questa gente, al di là del fatto di pagarla bene e di dare dei premi ai risultati? Ma io credo che ci sia la possibilità per questa media impresa di aprire un attimo la governance dal punto di vista della partecipazione nel capitale, o quantomeno nella garanzia, diciamo, di partecipare ai successi dell'impresa. Io ricordo solo un esempio in Italia, che non è lombardo, così non faccio torto a nessuno, ma io ricordo che Dallara, l'ingegnere Dallara, che fa tutti i telai della Formula 1, dal giorno in cui ha fatto entrare come socio paritario Andrea Pontremoli, che era l'amministratore delegato di BM, ed è entrato al 50%, quindi ha condiviso tutti i rischi dell'impresa, la oggi fa un fatturato che è 3 volte più grande e un utile che è 5 volte più grande. Io credo che il connubio virtuoso tra management e imprenditoria possa veramente fare la fortuna di tantissime imprese medie. Ecco, il tempo è tiranno, siamo costretti a chiudere. Ringrazio il professor Corbetta, arrivederci professore. Grazie, arrivederci. E ringrazio il dottor Verna.